Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica da Gegè Telesforo, pronti per dare il via al soundcheck, la prova del suono numero 183 quest'oggi qui su Radio 24, e buon pomeriggio anche al nostro Francesco Tromba. Te lo dico subito, mio caro Francesco, questa prima parte della puntata la dovrai fare tu, perché io sono un po' impegnato con la borsa. Come vedi, ho l'ansia da prestazione, da viaggio, anche se ormai sono passati tanti anni, la mia attività continua a procurarmi delle fortissime emozioni, e quindi siccome domani devo prendere un bel aereo per Parigi, il volo non è tantissimo rispetto a quello fatto qualche settimana fa per Giacarta, è poco, però c'è sempre l'emozione del musicista. Buon pomeriggio a Francesco Tromba. Buon pomeriggio a tutti. Tra l'altro, visto che avrai grandissima concorrenza in quei giorni a Parigi. Lo so, questo mi dispiace molto, e soprattutto, ma mi dispiace perché non posso andare a vedere delle band strepitose che sono presenti, mi sa, proprio domani. Sì, perché domani, allora cerchiamo di essere precisi, domani mi trasferisco a Parigi per qualche giorno per fare dei concerti in un paio di club. Io ricordo il club del giorno 4, quindi di dopodomani, che è il Sunset Sunside, che è uno dei club più famosi al centro di Parigi. Invece il nome del primo club che affronto domani sera non lo ricordo mai, qual è? È il Cabaret Jazz Club. Facilissimo. Espace Carpeaux. Ecco, Espace Carpeaux, che si trova a Courbevoie, che è una zona di Parigi. Sì, nei dintorni di Parigi. Di Parigi. Perché chi suona a Parigi domani? Suonerà John Legend. Orca miseria. Allo Zenith. Wow. Anche gli Snarky Puppy. Oh no, e quello mi dispiace, che suonano nello stesso orario nostro, no? Sempre sì, alle 21, sì. A quell'ora lì. Dove suonano Snarky Puppy? All'Embe Sanois, non so. Questo mi dispiace molto, magari faccio una fuga, cerco di fare un concerto breve per andare a sentire l'ultima mezz'ora degli Snarky Puppy a Parigi. Cose da musicisti, cose di musica qui al Soundcheck. Facciamo una cosa, diamo il via alla prima artista che abbiamo selezionato per quest'oggi, una vocalist compositrice inglese ma con origini giamaicane, giusto? Greche e giamaicane. Greche e giamaicane. Padre greco e madre giamaicana. Figurati in famiglia che cosa possono cucinare, la feta con che cosa? Col pollo alla giamaicana, eh? Col pollo fritto. Col pollo fritto. Allora, si chiama Lian La Havas, il brano che vi presentiamo è Elusive, tratto da Is Your Love Big Enough, una pubblicazione di un paio di anni fa che tra l'altro si è anche aggiudicato un bel premio. Sì, ha vinto l'iTunes Album of the Year nel 2012. E quindi album dell'anno per iTunes, Lian La Havas con Elusive al Soundcheck di Radio 24. He's elusive and I'm awake to finally reveal there's nothing fake, a mystery now to me and you. Open my eyes and I'm next to you. He says my destiny lies in the hands that set me Your Love Big Enough. Questo è il titolo dell'album di Lian La Havas, cantante vocalist da tenere d'occhio per voi appassionati di musica presenti su Radio 24 quando in onda il sabato e la domenica c'è il soundcheck. Ricordo subito anche l'indirizzo di posta elettronica per inviare i vostri commenti, di solito sono commenti positivi e soprattutto c'è una grande richiesta sui brani che mettiamo in airplay. L'indirizzo è soundcheck@radio24.it e tutto tutto l'airplay della nostra prova del suono la ritroverete poi nelle pagine di groovemasteredition.it, che puntualmente pubblica le scalette del nostro programma. Allora, altri concerti per esempio da vedere nei prossimi giorni in Italia, che cosa c'è, Francesco? In corso il Bologna Jazz Festival. Oh! Quindi ieri c'è stata di Bridgewater. Fortissima. La attendiamo a Roma, perché fra pochissimo partirà anche il Roma Jazz Festival e ci sarà proprio Didi Bridgewater con Theo Crocker. Andremo a salutare la nostra amica. Il 4 novembre all'Unipol Auditorium di Bologna ci sarà Bill Frisell con il suo nuovo progetto Guitar in the Space Age. Eugenio Macchia il 5 novembre alla Cantina Bentivoglio, sempre a Bologna. Sì. Fred Wesley e la sua band al Bravo Caffè. Fred Wesley, trombonista eccezionale, faceva parte della band di James Brown. E infine sabato 8 novembre John Taylor in piano solo. Continuo ad annunciare tutte le date Tutte le date di Bologna. No, ci sarà un sito di riferimento, Basta andare in internet e cercare Bologna Jazz Festival, grandissima edizione. Ma insomma, a Bologna da un po' di tempo si spinge l'acceleratore sul jazz e sulla musica di qualità. Invece concerti più pop rock in Italia, cosa possiamo trovare? In Italia vediamo che in realtà c'è questa settimana Taylor McFerrin. E Taylor McFerrin lo abbiamo già annunciato, e tra l'altro verrà a Roma il 6 di novembre, giusto? Sì. Domani al Teatro Argentina ci sarà Stefano Bollani in piano solo. Qui a Roma? Sì. Spyro Gyra al Crossroads di Roma. I veterani della Fusion. E invece Thurston Moore e la sua band il 2 e il 3 all'Arcatraz di Milano. Ecco, questi soltanto alcuni dei concerti da seguire la prossima settimana nel nostro paese. Torniamo a Lien La Havas, protagonista di questa prima parte del nostro soundcheck, con la partecipazione di Willie Mason. Il brano si intitola No Room for Doubt, qui al soundcheck. You caught me guilty, taking the pieces of you. That night you took flight, I couldn't decide what to do. I won't let a safe bet continue to make me go blue. Sound check. Il suono della musica. E con The Movie Album appena pubblicato, il trombettista talentuoso direttamente dalla Germania Till Bronner strizza l'occhio al mercato, riproponendo con il suo strumento le melodie portanti delle colonne sonore di film che probabilmente lui ha amato. Album pubblicato da una multinazionale come la Universal, e qui Till Bronner incontra in questa versione di Happy di Pharrell Williams, infatti brano portante di Cattivissimo Me, cartone animato di grande successo, incontra il sax tenore del bravissimo Everett Harp. Questo è il soundcheck di Radio 24, e sì, dalla Germania stanno arrivando musicisti meravigliosi. Da sempre è un paese devoto all'arte in generale, ma sta spingendo molto nei confronti della musica, e infatti mi sa che proprio in questi giorni stanno per iniziare due festival jazz veramente importanti e ricchi di musica e di artisti. Sì, ci sarà il Dortmund Jazz Festival, questa sera ci saranno gli Snarky Puppy. Ecco, sempre loro, quindi sì. Dopo Dortmund vengono a Parigi. Sì, esatto. Esatto, va bene. Il 16 invece ci sarà Kenny Garrett. Infine Il 16, sì, quindi il 16 stiamo parlando fra un paio di settimane. Sì, sì. Il festival di Dortmund dura 2 settimane circa. Ma suonano tutti i giorni? Sì, praticamente. Porca tutti miseria, giorni. Quanti soldi hanno questi? Beh, si sa che la Germania sta un po' meglio di noi, eh? Vabbè, direi di sì. Invece ci sarà la chiusura del Berlin Jazz Festival questa sera con Jason Moran e i suoi The Band Wagon. Uh-huh. Quindi il Festival di Berlino termina oggi. Sì. Quella è una città che va visitata, per tanti motivi. Tu ci sei stato? Sì, ci sono stato e devo dire che mi è piaciuta tantissimo, l'ho sentita molto viva. Ma tu che sei un intellettuale ex di sinistra, mi sa che a Berlino ti troveresti bene. Sì, diciamo che il problema principale sarebbe il tedesco. Beh, ma lì parlano tutti inglese. Questo è anche molto italiano, perché la comunità italiana a Berlino è presente, si fa sentire. Eh sì, si sente parlare quasi più italiano. E non sono tutti camerieri e cuochi. No, assolutamente no. Allora, torniamo alla musica dopo Till Bronner con la sua versione di Happy di Pharrell Williams, un altro brano molto felice, molto divertente, tratto dal nuovo album di Sean Escoffery, vocalist, compositore inglese. Il brano si intitola Nature's Call e proprio questa composizione è stata segnalata anche nelle pagine del sito Soul Tracks, sito americano che diffonde il piacere della musica soul e dell'R&B, e quindi per Soul Tracks album del mese, quello di Sean Escoffery, presenti al soundcheck con Nature's Call. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Considerata la regina del neo soul, la voce di Erykah Badu con un classico del suo repertorio intitolato Apple Tree qui al soundcheck di Radio 24. E alcuni anni fa ho avuto il piacere di intervistare un grande maestro del soul jazz come il vibrafonista Roy Ayers, che in quel periodo veniva celebrato e ricordato proprio come uno dei pionieri ante litteram del neo soul, perché già negli anni 70 spingeva cercando di proporre musica a cavallo fra la struttura jazzistica, il groove e qualcosa anche di ballabile. Gli insegnamenti di Roy Ayers sono stati recuperati dai musicisti della nuova generazione. Roy Ayers mi raccontò che era stato in studio a casa di Erykah Badu con la quale stava realizzando qualcosa, e mi disse che rimase molto colpito dagli atteggiamenti di Erykah Badu, che si presenta in studio vestita, a volte lo fa anche quando si esibisce dal vivo, vestita quasi come una sacerdotessa egiziana, con le luci soffuse, anzi dice c'era un buio terribile, io non vedo bene, mi disse Roy Ayers, quindi non vedevo proprio nulla, accese delle candele con degli incensi, fatto sta che disse ho vissuto quella mezza giornata a casa di Erykah Badu come se fossi entrato in una cripta. Questo è il racconto di Roy Ayers per Erykah Badu, che comunque è un artista di prima grandezza del contemporary R&B di oggi. E Erykah Badu ha anche lei i suoi seguaci, e fra queste c'è una ragazza, anche lei inglese, che si chiama Fatima. L'abbiamo presentata. A te piace Fatima? Sì, è una discepola, potremmo dire, di Erykah Badu. Bravo, una discepola di Erykah Badu. E infatti nei primi dischi di Fatima si sentiva molto l'influenza della regina del neon soul. Adesso invece in queste nuove produzioni, probabilmente con il nuovo producer, Fatima sta cercando una strada personale a cavallo anche lei fra sonorità jungle, dub, qualcosa di etnico, comunque ritmiche molto interessanti anche se scarne. Eh sì, essendo molto giovane è partita, si è ispirata a Erika Badu e adesso sta andando verso qualche altra una strada direzione. Molto personale, sì. Speriamo di vederla dal vivo Fatima anche nel nostro paese. Intanto la gustiamo con questo brano intitolato Family, Fatima al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. E in questa puntata, con una massiccia presenza di artisti europei, da Till Bronner tedesco, Fatima inglese, Sean Escoffer inglese, continuiamo così facendovi ascoltare il nuovo album, o un estratto dal nuovo album, del bestseller inglese Jamie Callum. Sì, una carriera scintillante per questo pianista, cantante che con il primo album si fece apprezzare dalla critica, con il secondo scalò le classifiche discografiche e ancora oggi è campione di incassi con i suoi album per quel che riguarda le classifiche del jazz. Jamie Callum realizza un album intitolato Interlude, non ci sono composizioni originali, ce n'è qualcuna, ma è un album di jazz standards e per realizzare questa nuova produzione chiama anche alcune special guest. Fra queste la nostra amata Laura Mvula, che in questo momento in Inghilterra sta spopolando dopo il successo ottenuto con Green Garden, il singolo del suo album, è partita in tournée accompagnata dalla Metropole Orchestra, addirittura un grandissimo organico sinfonico con il quale ha rivisitato tutte le sue composizioni in chiave sinfonica, lasciamelo dire Francesco Tromba. Jamie Callum e Laura Mvula si dedicano così alla realizzazione di un classico come Good Morning Heartache. Ti piace Laura Mvula, lo so. Sì. Mi piace anche Jamie Callum, devo dire. Certo, io l'ho visto dal vivo, l'ho anche conosciuto, intervistato, abbiamo passato un paio di giornate insieme diversi anni fa. Un ragazzo carinissimo, guarda. Lui appunto dice che questo nuovo album è il frutto della collaborazione, delle esperienze di questi anni. Si è accorto che appunto, come dicevamo prima, nel retroterra, diciamo, della musica inglese ci sono tantissimi artisti che sono bravissimi e lui ha cercato di coinvolgerli in questo ultimo progetto. Certo, li ha scelti bene, no? Laura Mvula in questo momento è quasi una top star inglese, è presente anche in spot, in commercial televisivi con la sua musica. Sì, anche in Italia ultimamente è venuta fuori la sua canzone Green Garden. Sì, ho sentito una pubblicità con i campanellini di Green Garden per Laura Mvula con Jamie Callum qui al soundcheck di Radio 24. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. Sì, una grande produzione quella nuova di Jamie Callum con Interlude, questo è il titolo dell'album, qui in compagnia di Laura Mvula in Good Morning Heartache. Bene, siamo quasi ai saluti per questa prima parte. Vi anticipo che nella seconda parte, quella che inizierà alle 19:15, avremo come nostro ospite il pianista Domenico Sanna, uno dei musicisti di riferimento del jazz contemporaneo nel nostro paese, reduce da una bellissima esperienza fatta a New York, dove ha realizzato il suo nuovo nuovo album intitolato Brooklyn Beat, con due musicisti strepitosi come Amin Salim al contrabbasso e Donna Hawkins alla batteria. Sono due dei nuovi talenti newyorkesi. Domenico Sanna, tra l'altro, con me partirà domani proprio per Parigi per questi due concerti che faremo in due fra i più importanti jazz club della capitale francese. Quindi viene qui con la sua borsa e poi andremo a mangiare qualcosa subito dopo l'intervista e ci prepareremo psicologicamente ad affrontare questa trasferta, perché le emozioni sono sempre in agguato, mio caro Francesco, quando fai l'artista. Dopo tanti anni mi sorprende che tu ancora... C'è un termine tecnico che non posso utilizzare via radio, per motivi che si possono ben capire, però l'artista prima dell'esibizione ha sempre quella strizza che lo rende effervescente. L'importante è come viene vissuta questa strizza. E ti aggiungo anche che negli ultimi anni la strizza mi viene anche prima delle partenze, non so perché. Come mai? Non lo so, guarda, non voglio parlarne adesso, voglio andare alla musica. Allora, facciamo una cosa, ascoltiamo un altro brano di Jamie Cullum, però da un'esperienza discografica precedente. Il brano è molto carino, si intitola Nothing I Do. Jamie Cullum chiude questa prima parte del soundcheck, ci risentiamo più tardi a partire dalle 19:15, sempre soltanto qui su Radio 24. We were so drunk last night, we had that stupid fight. You call me a useless, selfish prick. So I'm in a fix right now, and we'll measure the truth somehow. Love is a funny thing to me. One, me. Two, hey, hey. Something. Check one, two, mic. Microphone, check one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gegè Telesforo. Siamo pronti per dare il via alla seconda parte del sound check di questa domenica. Ancora una volta buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera al nostro ospite, pianista, compositore, arrangiatore, reduce da una bellissima registrazione fatta a New York. L'album verrà pubblicato fra qualche giorno, quindi quella che faremo questa sera è un'anteprima. Uno dei protagonisti della scena jazz contemporanea nel nostro paese, ma anche a livello internazionale, lasciatemelo dire, perché questo album intitolato Brooklyn Beat vede la partecipazione di due fra i migliori musicisti newyorkesi di oggi, ovvero Donna Hawkins alla batteria, giovanissimo, e il formidabile Amin Salim al contrabbasso, che ormai da anni segue le vicende di Roy Hargrove e tanti meravigliosi musicisti americani. Vi sto parlando del mio amico trentenne from Gaeta, città di mare, Domenico Sanna. Buonasera Domenico e bentornato al soundcheck. Buonasera a lei carissimo. Grazie Domenico. Allora, no, oggi sei ospite del soundcheck per presentare questa nuova meravigliosa produzione. Io ti faccio i complimenti perché hai spinto l'acceleratore è un onore per me. Figurati, hai spinto l'acceleratore sulla creatività. Intanto, come hai raggiunto Donna Hawkins e Amin Salim, che insomma sono impegnatissimi e anche un po', fammelo dire, con la puzza sotto al naso perché frequentano grande musica? Esatto, ma il fatto è che in realtà sono un po' nero anche io, quella è la realtà dei fatti. E sei nero nell'anima? Nell'anima, naturalmente. Nell'anima, no, va, l'esperienza l'hai vissuta a New York, credo che sia una bella soddisfazione per un musicista italiano, o comunque per un sogno, direi. Anche per chi fa musica, italiano. Andare in uno studio newyorkese e ritrovarsi con la cuffia sulle orecchie, un bello Steinway & Son sotto le mani e due musicisti così, è prestigioso. Sì, oltretutto ti trovi in una città dove... i tuoi musicisti preferiti hanno dato vita proprio a questa musica bellissima e speciale che è la musica jazz, quindi ti trovi in un posto dove appunto senti tutta questa energia e senti il fervore appunto che c'è in questa musica. Per cui sono partito a novembre dell'anno scorso e al Bunker Studio di Brooklyn e ho portato un po' di musica mia, insomma, e siamo riusciti a registrare un disco che si chiama Brooklyn Beat. Ecco, Brooklyn Beat, che viene pubblicato da Giando Music e credo anche con la partecipazione di Mille Suoni, no? Esatto, quindi una via produzione Veneto Jazz con... via Veneto Jazz, sì, con Mille Suoni. Allora, Domenico Sanna, nostro ospite, io ho conosciuto musicalmente Domenico quando aveva 23 anni e l'ho visto in azione sul palco del Touchain Jazz Festival in compagnia del bravissimo Marco Valeri alla batteria e di un veterano del jazz italiano come Giorgio Rosciglione sì, al contrabbasso. E non so se ti ricordi, ma subito dopo l'esibizione voi avevate da poco registrato un disco intitolato Too Marvelous for Words, giusto? Sì, con Giorgio Rosciglione e Marco Valeri. Io entrai nel backstage per salutare soprattutto Giorgio e Marco, perché benissimo, non ti conoscevo, e ti feci i complimenti e ti dissi: guarda, sei forte perché sei giovane, ma mi ricordi pianisticamente musicisti, insomma, non il solito Herbie Hancock, Cocky Jarrett o Brad Mehldau, che sono i punti di riferimento dei giovani pianisti di oggi, però mi ricordavi Fata Airlines, qualcosa di Art Atom, mi ricordavi Mal Waldron, mi ricordavi Lenny Tristano. Questo è un po' il tuo background, o no? Sì, il mio background è assolutamente questo, e insieme a però tutto quello che succede un po' nella contemporaneità, direi così. Quindi penso di essere... appunto penso che ogni musicista in realtà è quello che ascolta, quindi sommi un po' di carte, esce un po' il tuo suono e viene fuori la tua personalità. Sì, sì, io lo dico spesso, perché il jazz non dimentica il passato, vive il presente ed è sempre proiettato al futuro. Allora, io, prima di presentare Brooklyn Beat, il nuovo album di Domenico Sanna con Amin Salim e Dana Hawkins, vorrei ascoltare proprio una traccia bellissima tratta da Too Marvelous for Words. Questa è una composizione originale scritta dal batterista Marco Valeri, il nostro amico Marco Valeri, bravissimo. Il brano si intitola Happy Fruits, che è un brano che poi abbiamo anche seguito più volte dal vivo, perché Domenico fa anche parte della mia band da diversi anni. Grazie a te. Allora, sentiamo Domenico Sanna con il suo pianoforte da Happy Fruits di qualche anno fa, Giorgio Rosciglione, il grande maestro, al contrabbasso, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Pronti per il soundcheck, la prova del suono, con ospite oggi il nostro pianista Domenico Sanna. Questo brano lo abbiamo infatti registrato insieme e inserito in due album, New Joy per Columbia Records e poi è stato utilizzato dalla Sony per un tributo a Lucio Dalla. Infatti questa era una composizione di Lucio Dalla intitolata, lo devo dire, scusatemi, Stronzo, questo è il titolo originale. Com'è? Infatti non lo posso ripetere, lo dico una volta sola, perché quando Lucio Dalla registrò questo brano inserito in un album del 1983, infatti gli speaker radiofonici facevano fatica a presentarlo in radio per il fatto che il titolo è tutto un programma, e noi lo abbiamo quindi rivisitato in chiave funk insieme a Alfonso De Ida al sax contralto, Joseph Bassi al contrabbasso e Roberto Pistolesi alla batteria. E oggi sì, parliamo della musica di Domenico Sanna. Noi siamo pronti perché domani ci trasferiamo insieme proprio con Joseph Bassi e Roberto Pistolesi per due date a Parigi, una Courbevoie e l'altra un'altra proprio a Parigi al Sunside Sunset, bellissimo club, ma insomma siamo pronti con le borse proprio per fare questa scampagnata parigina. Ma veniamo a noi, veniamo a Brooklyn Beat, album nuovissimo per Domenico Sanna. Qual è il concept che hai utilizzato con Dana Hawkins e il formidabile Amin Salim al contrabbasso per registrare Brooklyn Beat? Allora, il concept è quello classico, siamo in trio, io suono il pianoforte e anche il Fender Rhodes, e suoniamo cose diverse, nel repertorio c'è dal pezzo un po' complicato, complesso, con una scansione, un disegno ritmico articolato, con cose dispari, eccetera, e oppure magari ci suono un pezzo di Jackie Byard, che è una specie di blues, ma con completamente riarmonizzato, quindi con un approccio più swing, più classico. Comunque sono alla fine le cose che ci piacciono, quindi ho deciso di registrare tutto quello che poteva piacerci, ecco. Ecco, al primo ascolto l'album sorprende perché sorprende il talento dei musicisti, sorprende anche l'interplay con il quale avete realizzato gran parte delle tracce, addirittura a volte lo devo dire le melodie sono quasi accennate, quasi uno schizzo, non sì, definite è vero, perfettamente, è vero. Ma credo che sia proprio la cifra della stilistica della tua musica e comunque quello che si ascolta oggi a New York e negli Stati Uniti. È vero, giusto? Sì, allora io ti voglio ringraziare perché fra i brani hai anche utilizzato una mia composizione e ti ringrazio. Ma come mai hai scelto A New Joy? Fatti una domanda, scusami. No, me la faccio, infatti me la faccio, ma non trovo una risposta. Guarda, con tanta musica che hai suonato e che potevi scegliere. Secondo me nel momento in cui lo metterai si capirà assolutamente il perché. Penso sia un pezzo insomma bellissimo e lo sai perché te l'ho detto più volte, che ogni volta sto che lo arrossendo. Suono con te, ogni volta che lo suono mi emoziono anche io, quindi grazie Domenico, ci mancherebbe. Grazie. Allora, che faccio? Vogliamo suonare subito New Joy? Vai. Brooklyn Beat, nuovissimo per Domenico Sanna, al soundcheck di Radio 24, e New Joy. Soundcheck, il suono della musica. Nuovissimo per Bill Lawrence, pianista degli Snarky Puppy. Infatti questa produzione intitolata Flint è stata realizzata con la complicità del bassista Michael League, leader degli Snarky Puppy, una bella sezione di archi e la presenza di questo colosso contemporaneo della batteria come Robert C. Wright. Bill Lawrence, Flint al soundcheck di Radio 24, con nostro ospite quest'oggi Domenico Sanna, per presentarci il nuovo progetto Brooklyn Beat, album nuovo per Giando Music, registrato al Bunker Studio di New York con Amin Salim al contrabbasso e Dana Hawkins alla batteria, musicisti della nuova generazione che stanno per raggiungere Domenico Sanna. Adesso andiamo a fare due concerti a Parigi, domani e dopodomani, con Domenico, Joseph Bassi e Roberto Pistolesi alla batteria, e poi Domenico partirà per un giro di concerti qui in Italia per presentare Brooklyn Beat. Dove sarai? Partiamo il 6 da Bologna, lo spazio in due. E poi faremo Perugia, Ricomincio da tre, e poi faremo un teatro comunale ad Amelia, abbiamo Gaeta, abbiamo l'Alexanderplatz, abbiamo Padova Jazz Festival, abbiamo un po' di concerti. Insomma, un po' di concerti in giro in Italia per presentare Brooklyn Beat. Saranno felici Amin Salim e Dana Hawkins di tornare in Italia? No, ma anche loro, io vedo tutti i musicisti americani quando arrivano in Italia stanno benissimo. Uno, perché mangiano bene, due, perché fanno grande musica, e il terzo motivo, lo sai, non c'è bisogno neanche che lo dica, molti musicisti si sono fidanzati e a volte sposati con donne donne italiane appassionate di musica, caso, di altro e di altro. Vedi Gregory Hutchinson, nostro sì. amico alla batteria. Allora Domenico, chiudiamo questo appuntamento del soundcheck con un'altra traccia tratta da Brooklyn Beat. Il brano si intitola Evidente, una tua composizione, si intitola Evidente perché hai preso spunto da Evidence di Thelonious Monk, credo. Esatto. Allora, grazie a tutti voi per la pazienza, per l'attenzione, grazie per l'email all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Noi ci risentiamo sabato prossimo dalle 19:15, poi doppio appuntamento della domenica dalle 15:30 e poi la parte più jazz che inizia alle 19:15. Grazie e complimenti a Domenico Sanna. A te, Gigi, salutami Amin Salim e Dana Hawkins. Intanto chiudiamo le valigie per andare a Paris. A tutti voi buonasera. Arrivederci. E buona musica da Gigi Telesforo e Domenico Sanna.